Virginia Oldoini, gentildonna toscana, andò in sposa a Francisco Verasis, conte di Castiglione, divenendo così la famosa contessa di Castiglione. Il marito dovrebbe covare più di un motivo di rancore nei suoi confronti, non tanto perché lui è rimasto ignoto ai più, ma perché lei, pronube il Cavour, politico astuto che non badava i mezzi, come noto, bella giovane come era, lei ricevette i favori, come si diceva a quel tempo, di Napoleone III. Concesse i suoi favori a Napoleone III. A me mi piace anche la reciprocità della cosa, vista la posizione dei due personaggi. Ebbe uno scambio di favori con Napoleone III. E allora con questo siamo politicamente più corretto. La nobile Tresca, questo non so se siano politicamente più corretto, la nobile Tresca durò in vero pochino. Nel 1860... Ad accordi franco-piemontesi, accordi politici conclusi, lei, 23enne, pur trasferitasi a Parigi, era già in disgrazia. E vuole la leggenda che di uggia in uggia, al momento fatidico dei 30 anni, la poverina abbia deciso di non volersi vedere trascinata nel baratro della carne andata male, facendo abbrunire tutti gli specchi di casa. Lovisa Gustafsson, in arte Greta Garbo, Lovisa Gustafsson, invece resistette qualche anno di più. Passata da commessa in grandi magazzini a creatura dalla bellezza divina e ormai adusa ai gesti idolatri rivolti alla propria persona, temette di perdere pian piano il rango conquistato e preferì alimentare la propria leggenda lasciando il cinema e negandosi al mondo. A 36 anni praticamente divenne inaccessibile. La zia del mio amico Renato non ha dovuto scalare tanti gradi nell'ascesi e nel discesi. A quanto se ne sa, non ha frequentato da favorita talimi imperiali né da stella il firmamento del grande cinema. E mo vi racconto, il mio amico Renato era diventato mio amico perché abitava un primo piano proprio di fronte alla mia finestra sul cortile. Io stavo sul terrazzino a giocare, lui stava sul terrazzino a giocare e prima o poi, incontrandoci per strada, era fatale che diventassimo amici. Lui viveva in una famiglia strana. C'era il papà, c'era la mamma, c'era anche il fratellino piccolo. E di strano c'era la zia, che persona peraltro normalissima, affabile e cortese anche con i ragazzini che le scorazzavano per casa, non usciva mai. Dal 1955, o forse anche da prima, aveva preso una decisione: non sarebbe mai più uscita di casa. Una delusione d'amore, o almeno questa era la motivazione con cui, con malizia di ragazzi, Renato spiegava la decisione. Non so né saprò mai se un'interpretazione del genere potesse averci un qualche fondamento. Quel che è certo è che la zia, davvero, in 40 anni non l'ho mai vista in giro. Se un voto o una drastica decisione ben ponderata e tenacemente deliberata c'era stata, questa è stata rispettata alla lettera. Il mondo, nonostante i suoi allettamenti, non l'ha più avuta fra gli artigli. Barricata in casa, ha in pratica superato una vita intera, come se per lei a questo mondo si giocasse semplicemente una partita che verte sulle misure del sepolcro, dal condominio alla bara. Nel frattempo la famiglia del mio amico Renato si è dissolta. Prima è morta la madre, poi lui è andato via con la sua compagna, poi è andato via il fratellino che si era fatto grande, poi è morto il papà, che avevo anche avuto l'occasione di difendere da questi microfoni nei suoi ultimi anni dall'accusa di urinare tutte le mattine sullo zerbino di una condomina che gli stava antipatica, e la zia rimase sola. Ogni tanto la visita frettolosa dei due nipoti, se non altro per constatare che il suo polso batteva ancora. Il cibo glielo consegnavano allo spiraglio della porta e forse anche qualche stecca di sigarette, perché se non ricordo male era una canita fumatrice. Tutti lì i suoi contatti con i compagni d'avventura sul pianeta. Per tutti questi anni, come mi svegliavo e alzavo la tapparella, lo sguardo mi correva automaticamente laggiù, al balconcino e dalle due finestre del primo piano. Erano alzate le tapparelle e, siccome la sera prima erano state regolarmente chiuse fino all'ultima stecca, significava che la zia di Renato era viva. Il giorno che non si sono alzate non c'ero. L'ha trovata casualmente un nipote in visita, abbandonata sul pavimento, ancora viva, duramente provata da un'emorragia cerebrale, se non vado errato. L'hanno portata via e l'hanno salvata. Ma le tre tapparelle laggiù rimangono ugualmente abbassate fino all'ultima stecca. Mi sono imbattuto nel mio amico Renato, che mi ha detto che la zia è salva, che sta bene, che l'hanno portata in un cronicario in campagna, perché così da sola evidentemente non poteva più stare. Diciamo che alle soglie della segregazione definitiva c'è stato un minimo cambiamento nella misura del contenitore che il destino le ha riservato. Improvvisamente garula e spiritosa mentre gioca a 3-7 con Arzilli Ottuagenari, non me la vedo. Mi immagino che, anzi, scruti con un torvo rancore più che giustificato quanto le impedisce di rispettare la decisione presa. Una decisione fondamentale nonostante tutto, una decisione di cui a quest'ora del suo tempo può aver perfino dimenticato la dolorosa origine. Negli ultimi anni, a dire il vero, una deroga alla sua meticolosa clausura, la zia di Renato se l'è concessa. Mi ero accorto che sul balcone, in un vaso, era nata una piantina di basilico e con un po' di pazienza sono riuscito a coglierla sul fatto. Si apriva uno spiraglio minimo, sufficiente a far passare un bicchiere, e una mano tremolante serviva al basilico dell'acqua necessaria. A modo suo, con la giusta titubanza, non priva di un'amorosa timidezza, la zia di Renato aveva ripreso un ultimo disperato contatto con la vita, un tardivo ripensamento. Perché radio attiva, eppure il vento soffia ancora, spruzza la...